I lavori di domani di Anna Marino. È come un fotografo, un orologiaio, il criomicroscopista elettronico. Grazie alla tecnologia si mette in cerca dell'ingranaggio bloccato per poter capire meglio il funzionamento dei meccanismi che sono alla base della vita e della malattia. È infatti specializzato nella caratterizzazione architettonica di bersagli cellulari e molecolari mediante microscopia elettronica, cioè con l'osservazione al microscopio tra le attività simbolo e più diffuse dell'universo scientifico. Nel campo delle scienze della vita, cioè le scienze che studiano i vari processi che regolano la vita e la malattia, la microscopia elettronica si è recentemente affermata come tecnica di indagine valida e spesso indispensabile, e con le moderne tecniche di preparazione e visualizzazione, infatti è oggi possibile fotografare l'interno di una cellula, pensate, ad alta risoluzione. In questo modo il criomicroscopista elettronico si muove come orologiaio in cerca appunto dell'ingranaggio bloccato. E noi, come sempre e come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti, link utili su cui cliccare dal vostro PC o device per avere le informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Grazie a Paolo Schwetz, crio microscopista elettronico. Brevemente, come io spiego ai miei nipoti, io faccio fotografie a cellule, molecole freddissime, quindi cose piccolissime e freddissime. Banalmente, quello che noi facciamo a Human Technopole è supporto alla ricerca avanzata, che si basa su una delle tecniche più iconiche e semplici del mondo della scienza, cioè l'osservazione al microscopio. Ora, per vedere queste cose come cellule, tessuti, ma anche virus, molecole, proteine, enzimi, usiamo dei microscopi altamente sofisticati che richiedono degli approcci molto molto tecnici e molto delicati per poter vedere queste piccole macchine che supportano sia la vita che anche i meccanismi patologici. Questi bersagliamenti, insomma, ti sono comunque familiari adesso ed è il tuo lavoro molto gettonato, però per arrivare diciamo fin qui hai dovuto prepararti molto, e per capire però un po' meglio qual è la tua giornata tipo te lo chiediamo, perché così capiamo insomma dalla mattina alla sera quali sono i tuoi compiti, anche per noi che non conosciamo una professione così specifica. Certo, allora la giornata tipo non è una giornata, perché comunque è un lavoro sulle 24 ore. I microscopi elettronici, che di nuovo sono molto sofisticati e molto costosi, operano praticamente 24/7, senza interruzione, quindi massima efficienza. Sono microscopi che operano in azoto liquido e quindi di nuovo c'è una specie di chiamata anche notturna, nel caso, non succede quasi mai, però nel caso dovessero esserci problemi. Ci sono diverse strumentazioni per diversi, diciamo, obiettivi sperimentali. Si parte da un microscopio entry level, quindi per iniziare a vedere dei campioni può andare banalmente dai 250.000 euro, mentre i più sofisticati, diciamo la punta di diamante della scienza mondiale, possono arrivare anche a costi vicino all'8-9 milioni di euro. Quindi la giornata tipo inizia alle 9, un controllo della strumentazione, un piccolo meeting con il team di ricerca o con i collaboratori per capire qual è la domanda sperimentale, poi una volta individuata si procede con la fase sperimentale, dove si va a vedere con gli occhi del microscopio elettronico quello che c'è nel loro campione. Inizia poi un iter che può andare dalla giornata fino a mesi interi di data analisi e raccolta di dati, per poter poi rispondere alla domanda biologica che c'era stata presentata all'inizio. Questo è il migliore delle ipotesi. E tutto questo condito poi dalle varie task di gestione della facility, dei contratti, della manutenzione degli strumenti e soprattutto una delle mire più importanti per Human Technopole, quella di divulgazione scientifica sia nella comunità che sia nella comunità specifica scientifica, quindi attraverso formazione, workshop, servizi di supporto alla ricerca. Queste sono giornate insomma anche un po' particolari, ma anche in un momento in cui la ricerca scientifica è importante, un momento in cui c'è un'emergenza sanitaria, è anche importante come dire arrivare ad essere preparati e pronti a svolgere questi ruoli. Il tuo è molto specifico, molto particolare, infatti è importante e chiave questa domanda: dove ti sei formato? Come succede per altri colleghi che hanno partecipato al programma, il percorso ovviamente non è lineare. Quello che ho subito io è una serie di contaminazioni combinazioni che sono partite dall'Università di Padova, dove mi sono laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, per poi fare un breve percorso al King's College di Londra in chimica computazionale, un piccolo progetto all'Università di Parma in chimica inorganica, per poi affermarmi nella biologia, quella che noi definiamo wet lab, quindi quella con le pipette e le mani sporche di media e liquidi cellulari al Francis Crick Institute di Londra. Poi nel 2017 sono tornato per impostare ed avviare il primo laboratorio di chirurgia elettronica qui a Milano, all'università, per poi finire a ripeterlo, ma molto più in grande, a Human Technopole, nella facility di chirurgia elettronica, che appunto è una facility che è aperta sia per gli utenti interni sia per i ricercatori sul territorio nazionale. Quindi di nuovo quello che io ho fatto all'Università di Milano adesso è ingrandito su larga scala, su scala nazionale. È molto importante anche capire che ovviamente questo lavoro è stragettonato, ma non solo, è molto ricercato, perché la strumentazione è avanzata, ma bisogna avere anche delle skill, delle persone che sappiano usarla. Ecco, qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche a seconda della seniority, dell'esperienza, della capacità, e non solo dal punto di vista diciamo della monetizzazione è importante, ma è importante anche capire che c'è una ricerca superiore all'offerta. Certo, io appunto vengo da una selezione del personale, stiamo cercando due tecnici che lavorino con me full time, ci sono più microscopi che microscopisti. Questo rende il vario processo di selezione e di ricerca del personale il vero bottleneck del processo di avviamento di ogni laboratorio. Detto ciò, di nuovo sul panorama internazionale ci sono due categorie. C'è la categoria di tecnico specializzato che va da un RAL di nuovo a livello europeo, e Human Technopole è completamente allineato in linea con questi valori, dai 35 fino ai 50.000 annui. Per poi a livello sempre maggiore di seniority, a livelli anche dirigenziali di facility, si possono raggiungere tranquillamente i 50-80 mila. Discorso ben diverso, come potete immaginare, dal discorso farmaceutico, dove appunto un dirigente di un laboratorio di chirurgia elettronica può rivale anche a delle cifre importanti come 100-110 lordi l'anno. Quali percorsi consigli appunto per la formazione della tua figura? Beh, il primo consiglio è quello di non impostare un percorso troppo rigido, perché di nuovo io lavoro sia a Technopole a livello internazionale con ricercatori di ogni ambito, matematici, fisici, chimici, esperti di comunicazione, esperti di statistica, quindi non è un percorso diciamo blindato. L'unico vero consiglio che posso dare è quello di scegliere una carriera, un laboratorio in cui si ha un accesso diretto alla strumentazione, perché è vero, una buona parte di preparazione teorica è importante per fare un po' da pietra basale, però diciamo che la parte tecnico-pratica è quella che davvero viene valutata nei processi di selezione, quindi direi hands-on experience. Diciamo imparare sul campo, learning by doing è ormai il nostro leitmotiv, però il problema è che adesso bisogna essere anche virtuali nel nostro apprendimento, e quindi non solo magari in presenza, ma un po' mescolare le cose. Allora è ora, lo diciamo anche per gli ascoltatori, di prendere appunti, li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo, prendete carta e penna o i vostri device e via con gli appunti. Sentiamo quali indicazioni, app e siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro. Come sempre lo ricordiamo, e come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app, siti, link utili appunto su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione, e perché no dritte sulle opportunità per questa figura, criomicroscopista elettronico. Allora, dal punto di vista di ricerca del lavoro, fondamentale il portale di HR Recruitment di Human Technopole, e lo dico perché, di nuovo, è un istituto che sta nascendo e che ha diverse figure ricercate, quindi su diversi livelli, non solo per la microscopia elettronica. Poi, senz'altro, i vari canali di Nature Jobs, LinkedIn, i vari portali delle società di microscopia elettronica. Mentre dal punto di vista della formazione, negli ultimi anni abbiamo avuto un grandissimo aiuto da parte della comunità, sono diversi siti disponibili, uno su tutti, emlearning.com, è una piattaforma completamente gratuita con dei video tutorial hands-on di personale specializzato che utilizza e prepara campioni e utilizza il microscopio, quindi quello fondamentale. Poi in ultima nota, Twitter per la scienza negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, perché si può entrare in contatto diretto con premi Nobel e specialisti, e in due tweet si ha la risposta specifica. Fantastico. È un bello è un bel display. Ovviamente la chiave di tutto questo è anche la ricerca che in questo momento ha un ruolo fondamentale e deve essere sostenibile, su cui puntano i fondi europei, su cui puntano tutti, proprio perché abbiamo capito quanto è importante che non si fermi la ricerca e non si fermino i ricercatori. Tu stesso sei tornato in Italia, si parla tanto di cervelli in fuga, però è importante che i cervelli girino ed è importante che abbiano un futuro oltre che un presente. Che tipo di sviluppo vedi per il futuro sostenibile della tua figura? Ma tutto semplicemente, banalmente, ma fondamentalmente raccolto nella parola accessibilità. Ed è una delle missioni di Human Technopole, quello di rendere non solo gli strumenti, le tecniche, ma anche il personale, e quindi una sorta di processo di democratizzazione della scienza, portare e rendere accessibili tecniche che anche per mancanza di fondi o per mancanza di strumentazione fino ad oggi erano molto lontani e inaccessibili.